Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ricevuto la positività di quel tampone, almeno per un periodo di tempo lascia lo sconforto di non poter entrare in contatto più con nessuno. Vestita da marziana, con le tenute che ormai ci sono familiari, sono entrata nelle case delle persone che credevano di essere state abbandonate e mi dicevano: «Dottoressa, è bello vederla». Storie di dottoresse partigiane e di medici impavidi in una puntata che si intitola «Medici di frontiera». Io sono lampedusano. Lampedusa era una porta sempre aperta, la porta d'Europa. Quell'isola è stata abbandonata, è stata dimenticata da tutti. Il fenomeno dell'emigrazione dovrebbe essere preso in mano proprio qua, in questa sede, che è a Bruxelles. È una missione fare il medico, ovviamente. Me ne sono occupato fin dal primo sbarco, quindi ho seguito per tutti questi anni. Ho visto tante sofferenze, ho visto tante cose brutte, ho visto tante atrocità, l'orrore. Ho camminato sui morti, ho dovuto fare ispezioni cadaveri, ma quante? E tutto questo ti fa male. Ho cercato anche di raccontarle queste cose per fare sapere alla gente, perché sai, quando senti in televisione e senti tutte quelle bugie, ti viene una rabbia immensa. Dico, ma guardate che non è così. La voce che abbiamo sentito è quella di Pietro Bartolo, che è il medico che ormai è diventato piuttosto famoso, direi non tristemente, anche se spesso si accompagna questo avverbio con il fatto di diventare famosi. Lui non l'è diventato in maniera triste, perché è stato molto attivo a Lampedusa tutte le volte che c'era da soccorrere qualcuno. Tristemente, perché la storia di Lampedusa, ahimè, si accompagna in maniera molto molto triste con le vite che si perdono nei mari di Lampedusa, nel mar Mediterraneo tra il Nord Africa e i nostri confini. E Pietro Bartolo è stato uno di quei baluardi dell'umanità, prima ancora che della medicina, che hanno soccorso delle persone che, prima di essere africani, prima di essere clandestini, sono semplicemente degli esseri umani, e in quel caso sono dei naufraghi, sono persone che fanno naufragio. Insomma, l'abbiamo sentito perché la puntata di oggi è una puntata che in qualche modo è dedicata ai medici, si chiama Medici di Frontiera, e raccontiamo delle storie, raccontiamo una storia abbastanza incredibile che probabilmente le persone più schifiltose non dovrebbero sentire, anche se la radio ha questa grande fortuna di non avere l'immagine e quindi vi permette solo di, appunto, far andare la vostra immaginazione. Ed è la storia di un medico che, in una condizione estrema di grande emergenza personale, è costretto a effettuare su di sé un intervento chirurgico. È passato alla storia proprio per questo, anche se poi ha semplicemente continuato a fare il medico per tutta la sua vita. Ma la prima storia con cui apriamo è la storia di un giovane medico, di una donna, di una giovane medica siciliana, che è un medico di famiglia. E tra l'altro il medico di famiglia è uno di quei mestieri antichissimi che sono tornati alla ribalta in questo periodo per diversi motivi. Primo, perché sono stati bistrattati dalle amministrazioni che non li hanno, le amministrazioni sanitarie, insomma, che non li hanno agevolati, e che soprattutto hanno fatto perdere di lustro, prima ancora che di importanza, la loro figura agli occhi dei pazienti. Ma soprattutto se ne è molto parlato perché sono stati davvero quelli che, con quella terminologia militaresca non proprio carina, sono stati definiti in prima linea, perché erano il primo baluardo che incontrava chiunque si trovasse o si trovi tuttora nella condizione di una malattia dovuta a questa epidemia. E la storia che ci racconta Stella, che arriva dalla Sicilia, è una storia che guarda da dentro, è una soggettiva, è proprio una telecamera che lei ha attaccata su un caschetto sulla fronte, e insieme a lei entriamo nelle case delle persone che aspettano che arrivi qualcuno, che sono letteralmente abbandonate. E quando arriva lei, per quanto sia completamente bardata, tutte quante le dicono la stessa cosa, ed è: dottoressa, che bella averla tra di noi. Noi la ringraziamo per averci mandato questa storia, la ringraziamo a nome di tutto quanto il personale sanitario che è stato ed è lì tutti i giorni nei loro ospedali o nei loro ambulatori o nelle case delle persone a fare questo lavoro così prezioso. E noi cerchiamo di rendere merito a queste persone, a questi operatori sanitari, questi medici, questi infermieri, a modo nostro, e cioè raccontando una storia, e che è la storia di Stella. Benvenuti a Linea d'Ombra. Il 21 febbraio è una data che tutti noi italiani abbiamo ben scolpita nella memoria recente. Il paziente 1, Mattia, veniva ricoverato in rianimazione all'ospedale di Codogno con la diagnosi di polmonite da SARS-CoV-2. Quel giorno ci rendemmo conto che improvvisamente il virus di cui sentivamo parlare da mesi e che percepivamo lontano un continente intero era in realtà già dentro le nostre case, tra i nostri amici e nelle nostre famiglie. Vivo in Sicilia, a Catania, e in questi giorni ospitavo mio fratello e mia cognata, tornati giù da Cuneo per una brevissima vacanza a casa dei nostri genitori, la prima dopo il loro matrimonio e dopo che ci avevano annunciato che ad agosto avremo un piccoletto tra di noi. Quel giorno avevo usato il mio ecografo per vedere il mio nipotino rotolarsi nella pancia di sua madre, con un pugnetto alzato e un dito in bocca, e non avevo trattenuto le lacrime. Sono un medico di famiglia e di continuità assistenziale. Io ho il mio studio di medicina di famiglia ad Acireale, in particolare, un comune della provincia di Catania, e poi faccio continuità assistenziale nell'Ennese, quindi normalmente viaggio e faccio i turni di notte o nei prefestivi e festivi. L'attività USCA invece è stata istituita appositamente in questo periodo di emergenza da uno dei decreti del Presidente del Consiglio, e quindi sono stati allestiti anche qui in previsione di una gestione domiciliare di questi pazienti. Ho deciso di partecipare, l'adesione è stata volontaria. Come tutti gli italiani, quel giorno mi sentii molto preoccupata. Come tutti i medici, in particolare, improvvisamente ebbi la sensazione di trovarmi coinvolta in una lotta che avremmo dovuto combattere per molti mesi, senza avere ricevuto alcuna preparazione. Catapultata dentro uno scenario che sembrava, ed era, drammatico, anche visto a distanza di migliaia di chilometri, e che immaginavamo potesse travolgerci con la stessa potenza se le nostre contromisure non fossero state pronte e determinate. Sappiamo cosa è accaduto nei giorni e nelle settimane successive. Abbiamo tutti dovuto fare i conti con misure restrittive delle nostre libertà personali e con una ritrovata vita casalinga in isolamento. Nel mio lavoro mi sono dovuta confrontare immediatamente con una riorganizzazione completa del contatto con gli assistiti. Mascherine, occhiali protettivi e visiere sono diventati strumenti di lavoro. La mia borsa medica è diventata uno zaino più facile da gestire in visita domiciliare, e i miei vestiti sottoposti a lavaggio compulsivo ad ogni fine di turno. Sul territorio, uno dei decreti presidenziali ha istituito le unità speciali di continuità assistenziale, con il compito preciso di prendere in carico i pazienti sintomatici sospetti e o accertati per Covid in una fase di malattia ancora precoce, con l'obiettivo essenziale di ridurre il sovraccarico ospedaliero e offrire le cure disponibili, soprattutto umane, a casa degli ammalati. Quando lessi della loro istituzione a metà marzo, io non ebbi neanche un dubbio. Partecipo al bando per la mia azienda sanitaria di riferimento, mi dissi. Più volte, come chissà quanti altri, mi sono chiesta nella vita, rileggendo le storie partigiane dell'ultima guerra, quale sarebbe stata la mia scelta in quelle circostanze. Avrei avuto il coraggio e la determinazione di combattere per la liberazione? Di certo il paragone non regge, e non ho la presunzione di credere che la mia decisione sia neppure lontanamente paragonabile a quella dei nostri nonni che imbracciarono le armi, ma in cuor mio mi sentii risoluta e libera, coinvolta, partecipe con le mie capacità, insomma, partigiana. You turn to me, I say what's there to talk about? Over 15 years we've talked about it all. I've learned to be as alone as together means, because we bring me down and I drive you up the wall. If you've got the mind to leave, then pick a topic to talk about. God knows I've time to give. You've Ho iniziato il mio nuovo lavoro il 14 di aprile e da subito è stato come lo immaginavo, pieno di motivazioni, di responsabilità e soprattutto di umanità. Preceduta da una telefonata che li avvisa del mio arrivo, vestita da marziana con le tenute che ormai ci sono familiari, sono entrata nelle case di persone che credevano di essere state abbandonate. «Dottoressa, è bello vederla», era la frase che mi sentivo ripetere ad ogni ingresso. Uno in particolare mi rimarrà impresso. Quello, guarda un po' il caso per il mio spirito partigiano, avvenuto il 25 di aprile. Avevo ricevuto la segnalazione di una famiglia, genitori poco più che quarantenni e un ragazzo di 17, tutti con sintomi. Padre accertato Covid positivo, moglie e figlio con il primo tampone negativo. Avevo contattato telefonicamente la donna e raccolto una storia di sofferenza che era iniziata più di un mese prima, a metà marzo. Il suocero aveva contratto il coronavirus in ospedale ed era deceduto a inizio aprile. Il figlio che lo aveva assistito aveva contratto anche lui il virus e inconsapevolmente lo aveva portato a casa. Il senso di colpa è percepibile tra le persone che risultano positive quando si ammala anche un altro familiare convivente. In questo caso, sia la moglie sia il figlio avevano iniziato a sviluppare i sintomi, gettando il padre nello sconforto. È proprio questa la situazione che mi trovo davanti. Un uomo isolato in una stanza all'ingresso di una piccola casa, una donna e un ragazzo anche loro confinati tra cucina e camera da letto. La visita deve avvenire con un ordine preciso, valuto prima la moglie e il figlio e solo alla fine il marito. Entrare in casa dei miei pazienti è una cosa che mi stupisce ed emoziona sempre, da sempre. Entro nella loro vita quotidiana, mi muovo tra le loro cose, ne sento gli odori. Adesso però è diverso. Cammino facendo attenzione a toccare meno cose possibili. La mascherina non mi fa respirare, provo ad essere sorridente, con lo sguardo almeno, ma non so quanto riesca a vedersi, attraverso gli occhiali protettivi e la visiera. In più, ho 3 paia di guanti, non percepisco il calore della mano che tocco. Ma non si può fare altrimenti. Sono travestita da marziana e così deve essere. Si entra in case di persone che hanno avuto direttamente la percezione di essere state, io uso la parola abbandonate per un periodo iniziale, perché non si sapeva come dovevamo trattarle. All'inizio non si parlava per niente di gestirle a domicilio, quindi queste persone che si trovavano in casa pensavano che il sistema sanitario in generale li aveva un po' dimenticati dopo la diagnosi di positività. E quindi in quei momenti, soprattutto durante le prime visite, avevo la diretta percezione che si aspettavano tantissimo. Ecco, si aspettavano tantissimo dall'ingresso di queste due figure travestite che entravano in casa. Si aspettavano accudimento, si aspettavano forse la risoluzione del problema, si aspettavano comunque di essere ascoltate e si aspettavano che qualcuno appunto percepisse la loro difficoltà di contatto. Tralasciando gli aspetti tecnici della visita medica del tutto rivista rispetto a una visita medica in era pre-pandemia, la completo nell'ordine che avevo stabilito e nonostante 2 su 3 non fossero andate per niente bene, mi rendo conto che la mia presenza ha avuto un risvolto essenziale. Dopo tutte le procedure e la spiegazione realistica di quale fosse l'evoluzione che potevamo aspettarci, alla fine di tutto avevamo riso. Io ero stata al mio solito forse troppo tedesca, diciamo così, chiedendo il rispetto delle indicazioni date. Loro mi avevano promesso che avrebbero seguito tutte le istruzioni alla lettera. Assoluto isolamento reciproco fino al risultato dei tamponi, sanificazione degli oggetti e degli ambienti, esecuzione del test, del cammino, assunzione della terapia, monitoraggio telefonico. Gli avevo fatto una testa tanta, ma ne avevamo riso. In Sicilia si dice che li avevo curottati. Li avevo confortati, si sentivano accuditi. Oltre ai farmaci avevo involontariamente e del tutto inaspettatamente lasciato una parte di terapia che ogni medico si augura di riuscire a prescrivere. L'alleanza, la fiducia, la speranza di stare meglio. Esco anch'io confortata, per niente stanca, sempre convinta della mia scelta di contribuire col mio lavoro a combattere sul campo. Mi concentro sulla svestizione, la parte più delicata, più rischiosa. Mi spoglio in strada, sotto gli occhi attentissimi dell'infermiere che mi accompagna e sotto quelli, per niente discreti, dei vicini sui balconi. Mi tolgo la mascherina e finalmente respiro. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. La storia di Stella è una storia che, come vi dicevo in apertura di puntata, è una storia che abbiamo visto, abbiamo intravisto in TV, sui giornali, sul web. Abbiamo intravisto queste persone che arrivavano con le ambulanze oppure negli ospedali coperte, completamente coperte, con queste tute bianche, con una riga blu in mezzo, insomma, le maschere sugli occhi. E la cosa che notavamo tutti, che era in qualche modo spaventosa, era che non riuscivi a vedere il volto di queste persone, e spesso e volentieri non riuscivi a saperne la storia, perché la storia importante era che stavano soccorrendo qualcuno che stava male. E noi invece raccontiamo storie e abbiamo la fortuna di avere ascoltatori come Stella, che oltre a fare quello che fa ci ascolta e ci ha anche regalato questa storia. Pronto, ciao Stella, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a tutti. Senti, partiamo dall'inizio, come stai e com'è la situazione adesso lì da te in Sicilia? Io sto molto bene e in realtà volevo rivolgere la domanda a te, perché da medico di solito sono io che chiedo alle persone con cui parlo come stanno, quindi come stai tu? Io sto molto bene, nonostante sia nel centro del contagio peggiore del mondo, perché la Lombardia è stata veramente, da un punto di vista dei numeri e delle percentuali, il posto in cui bisogna stare il più lontani possibile. Insomma, fortunatamente stiamo bene, continuiamo a fare tutto da remoto, in questo momento sono in casa e va decisamente tutto bene. Però la tua storia è straordinaria. È ambientata, Stella, in Sicilia, dico, e allora rispondo alla tua domanda. In effetti in Sicilia adesso va molto meglio. Okay. I numeri sono gestibili, i nuovi positivi sono sempre meno e i guariti sempre di più. Ma tu continui a farlo, questo servizio volontario? Sì, il servizio è previsto fino alla fine dell'emergenza, che sappiamo da decreto ministeriale essere prevista fino al 31 luglio. Quanti pazienti riesci a vedere in un giorno, Stella? Dipende dalla, diciamo, dalla tipologia di persone, perché non tutte vengono viste a domicilio, alcune vengono valutate solo telefonicamente, e a domicilio spesso ci troviamo un positivo e i suoi contatti stretti più o meno sintomatici. Okay. E quindi di volta in volta possono essere in quella casa 3, 4, 5 persone, interi nuclei familiari. Il gruppo familiare più numeroso che abbiamo visitato, che ho visitato, ed è stata la primissima visita che ho fatto, era una famiglia che aveva 10 persone che convivevano in una grande casa, su più piani. Però si erano contagiati tutti a vicenda, a partire da un nonno, e quindi erano 10. Che è stato un po' il grande dramma di questa emergenza, il fatto che gran parte dei contagi sono stati, la maggior parte, negli ospedali, ma una ottima parte nelle case, giusto? Sì, questa è stata una malattia, ed è una malattia familiare, in cui appunto il singolo contagiato magari perché per sua sfortuna oppure per circostanze intercorrenti si è trovato in ospedale oppure in quelle fantomatiche, famose, tristemente famose case di riposo, ha poi contagiato il singolo, ha poi contagiato un familiare che più o meno consapevolmente e molto più spesso inconsapevolmente ha portato il virus dentro casa, contagiando familiari. Senti, invece io vorrei fare quattro chiacchiere anche, poi purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, però ci provo, sulla tua scelta. Insomma, tu sei una giovane donna che studia medicina e sceglie di fare, correggimi se sbaglio, il medico di famiglia, si chiama ancora così, è quello che fai? Sì, romanticamente si chiama ancora medico di famiglia e io sono, anche se non esattamente una persona super emotiva, almeno all'apparenza, però questa parola mi piace tanto, la parola romantica associata al mio, alla mia professione. In realtà ci chiamiamo ufficialmente medici di medicina generale. Ok, e com'è che hai deciso, insomma, di fare questo e non una delle macro specializzazioni per cui si parla, di cui si parla e si studia? Inizialmente è stata, lo dico sinceramente, è stata un ripiego. Legato okay. al fatto che non fossi riuscita a entrare in uno dei percorsi di specializzazione universitaria. Poi okay. In realtà è stata una scelta sempre più consapevole, come tante cose nella vita, insomma. ti trovi a dover percorrere una strada diversa da quella che pensavi e poi la percorri con tanta convinzione e adesso sono super felice. Senti, un'ultima cosa, poi devo salutarti. Non è una cosa che faccio perché appunto in questo programma, immagino se insomma essendo tu un'ascoltatrice lo sappia, non facciamo polemiche, cerchiamo di non fare ideologia, raccontiamo solo storie, però approfitto della tua presenza qui, visto che tu fai questo lavoro, lo stai facendo in questo periodo. C'è qualcosa che tu vorresti dire alle persone che, diciamo, hanno in mano in questo momento le scelte in carattere, di carattere sanitario e di carattere sociale di questo paese? C'è qualcosa che tu vorresti chiedere o vorresti dire loro? Allora, sicuramente fare polemica o comunque delle critiche in un momento di crisi non è mai giusto, perché trovarsi a prendere delle decisioni importanti quando i numeri, quando i numeri crescono rapidamente, quando i morti sono tanti, insomma, è veramente difficile. Quindi proprio di criticare non mi sento, però mi auguro che per quello che potrà succedere nei mesi prossimi si riesca a isolare molto meglio i contagi e quindi a creare delle strutture, potenziare, diciamo, il punto di vista del territorio, che è stato fondamentale, forse in parte quello che ci diciamo tra di noi, è quello che un po' giustifica il disastro della Lombardia, la mancanza dell'occhio del territorio, dell'occhio vigile del territorio, e rimetterlo in campo in maniera assolutamente efficace ed efficiente, potenziando l'attività dei medici di medicina generale, ho letto, generale, ma anche degli specialisti ambulatoriali, di quelli che sono sul territorio, che sono davvero la spia del nostro sistema sanitario. Puntare tutto sull'ospedale purtroppo è stato fallimentare, abbastanza evidente anche nella cosiddetta eccellente sanità lombarda, che sicuramente lo è, ha avuto appunto quella falla lì. Ho letto da qualche parte, Stella, che probabilmente questa emergenza nei prossimi anni farà venire voglia a moltissimi giovani di iscriversi a medicina per fare i medici di medicina generale, cioè per fare i medici di famiglia. Chi lo sa, forse da un certo punto di vista, come hai detto tu, è una cosa solo romantica, ma magari diventerà anche utile. Stella, davvero ti ringrazio per tutto, per la storia, per la chiacchierata e per quello che fai, e ringraziando te, insomma, so che è un po', sembra un po' furbo, ma ringrazio anche tutti quelli che come te fanno questo mestiere, lavorano nelle case, negli ospedali e stanno vicini anche umanamente alle persone malate. Grazie davvero, Stella, in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo, grazie a te. A presto, ciao. Grazie mille, buona giornata. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Linee d'ombra. Cosa accade se c'è un'emergenza sanitaria e si rende necessario un intervento chirurgico in un luogo estremo, di frontiera, appunto, e c'è un solo medico, una sola persona in grado di fare quell'intervento, ma quella persona sei tu? Beh, se ti chiami Leonid Rogozov, sai cosa fai? Ti operi da solo, da sveglio. Questa storia l'abbiamo letta in un bellissimo sito che troviamo, in cui troviamo un sacco di storie e che vi consigliamo di visitare, si chiama Archivio Roncacci. E questa è firmata da Paola Ronco e in una puntata che si intitola Medici di frontiera, la prossima storia è questa, è proprio quella di Leonid Rogozov. State con noi. Il mese è aprile, l'anno è il 1961 e questa storia comincia con un uomo che si sente male. Sì, avete letto bene, siamo nel 1961, in aprile, e tutto quello di cui si parlerà qui è un uomo che si sente male. Niente Yuri Gagarin, anche se poi si scoprirà che in qualche modo alla fine c'entrava. No, niente Baia dei Porci, niente guerra nucleare scappata per un soffio, niente di tutto questo. Il motivo è semplice, ed è che l'aprile del 1961, per il protagonista della nostra storia, significa soltanto neve, gelo, buio, pesto anche di giorno, oltre a quell'inquietante senso di malessere che si rafforza ogni giorno di più. Leonid Rogozov ha 27 anni, è un medico e partecipa alla sesta spedizione antartica sovietica. Nelle immagini dell'epoca lo vediamo come un bel giovane uomo che sorride sicuro all'obiettivo. Sette mesi prima si è imbarcato sulla nave Ob e dopo 36 giorni in mare è arrivato sulla costa Princess Astrid. È qui, ai confini del mondo, che lui e i 12 compagni dell'equipaggio costruiscono una nuova base polare, dove dovranno passare circa un anno, in attesa che i ghiacci si sciolgano e permettano alla nave di tornare a prenderli. I sintomi per Leonid Rogozov diventano sempre più chiari, un po' di febbre, nausea, debolezza. Quando il dolore arriva all'addome, sul lato destro, non è più possibile fare finta di nulla. «Sembra che io abbia l'appendicite», scrive nel suo diario. «Continuo a mostrarmi tranquillo, perfino a sorridere, perché spaventare i miei amici? Chi potrebbe essermi d'aiuto, d'altra parte?» Sentirsi male in mezzo al nulla, senza la possibilità di un soccorso, senza un'apparente speranza. Leonid Rogozov sa, da medico, che un'appendicite non curata può perforarsi e che questo significa morte. Sa anche, per averlo fatto più volte, come si opera, ma nessuno dei suoi compagni potrebbe farlo per lui. «Stanotte non ho chiuso occhio», scrive, «fa un male d'inferno, una tempesta di neve mi frusta l'anima che sta ululando come 100 sciacalli». Le possibilità sono poche e alla fine, quando non può più indugiare oltre, Rogozov capisce qual è l'unica cosa che gli resta da fare, per quanto spaventosa. «I ragazzi l'hanno scoperto», scrive, «continuano a venire per cercare di tranquillizzarmi e sono arrabbiato con me stesso, ho rovinato le vacanze a tutti. Domani è il 1° maggio e ora sono tutti indaffarati a preparare l'autoclave. Dobbiamo sterilizzare la biancheria da letto, perché stiamo per operare». Just Del 30 aprile 1961 e alle 2 comincia uno degli interventi chirurgici più estremi della storia. Leonid Rogozov si mette in una posizione semiseduta, pronto all'anestesia locale. Con lui ci sono il meteorologo che ha ricevuto l'incarico di passargli i ferri e un meccanico che dovrà orientare la lampada e lo specchio in modo da permettergli di vedere bene che cosa sta per fare. È presente anche il direttore della stazione, pronto a intervenire se uno dei due compagni dovesse sentirsi male. «I miei poveri assistenti», scriverà poi Rogozov, «all'ultimo minuto li ho guardati, stavano lì, più pallidi dei loro grembiuli. Anche io ero spaventato. Ma quando ho preso la siringa piena di novocaina e mi sono praticato la prima iniezione, in qualche modo sono entrato in modalità operatoria e da allora non ho più notato nient'altro». Leonid Rogozov incide il proprio addome e capisce subito che lo specchio non gli sarà molto utile e che gli converrà usare soprattutto il tatto per orientarsi in profondità. Opera a mani nude, senza guanti, proprio per sentire meglio. Dopo una mezz'ora comincia a sentire una vertigine crescente anche a causa dell'abbondante perdita di sangue. Commette poi un errore, rendendosi conto appena in tempo di aver inciso l'intestino cieco. È sempre più stanco e suda in maniera incontrollata, ma in qualche modo arriva alla fine. «Sono sempre più debole, la mia testa comincia a girare. Ogni 4-5 minuti devo fermarmi per 20-25 secondi», racconta. Alla fine, eccola, la maledetta appendice. Noto con orrore la macchia scura alla base, significa che entro un giorno sarebbe scoppiata. L'operazione termina dopo un paio di ore. Il giorno dopo, Leonid Rogozov ha la febbre, ma è vivo. Due settimane dopo, riprenderà a lavorare alla base. Il suo ritorno in Unione Sovietica nel maggio del 62 sarà trionfale. Coetaneo di Gagarin come lui, proveniente dalla classe operaia, sarà acclamato alla stessa maniera come eroe nazionale. Leonid Rogozov comunque manterrà sempre un profilo basso e si dedicherà al suo lavoro di medico per il resto della sua vita. Un lavoro come un altro, una vita come un'altra, ripeterà spesso a quanti gli chiederanno della sua impresa. Busy working. Avoiding. There's something in it I'm not entertaining. You want to turn the earth backwards, why? And who made it time? It's not what I thought it would be. La storia di Leonid Rogozov è una storia piuttosto nota per gli amanti delle storie particolari. Noi l'abbiamo trovata appunto in questo sito molto molto interessante, si chiama Archivio Roncacci, a firma Paola Ronco. Se avete voglia di andare a visitarlo, ne trovate molte molte altre di storie interessanti. Ora noi ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. In questo spazio che è dedicato ai diari della ripartenza, abbiamo voluto per le prossime 4 settimane, in questa giornata, il venerdì, dedicare uno spazio molto molto specifico, molto preciso a una categoria, che è una categoria professionale e umana anche in qualche modo, che noi sappiamo essere molto fedele all'ascolto e di tutta la radio e di Radio 24 e in particolar modo, lo dico anche con un certo orgoglio, di Linee d'Ombra. Sono gli autotrasportatori, sono le persone che non sono mai ferme, innanzitutto, che probabilmente non si sono mai fermate, quindi per loro questa è una ripartenza particolare, perché probabilmente non è una ripartenza ma è semplicemente un continuare a lavorare, non essendosi mai fermati e avendo dovuto tra l'altro viaggiare e lavorare in mezzo a quella sorta di campo minato che erano le strade, che erano i decreti e tutte quante le regole che ovviamente erano cambiate in tempo di epidemia molto molto forte e molto presente nel nostro paese. E insomma, loro hanno continuato a viaggiare, hanno continuato a permetterci di mangiare, di avere i supporti che necessitavamo, non solo quindi il cibo ma anche tutto quello che logisticamente era utile per noi, per le aziende che dovevano continuare a lavorare, quelle della filiera sanitaria e dell'agroalimentare. Insomma, gli autotrasportatori spesso e volentieri, quando li incontro, mi dicono che o ascoltano della musica che si scelgono loro oppure ascoltano le radio che parlano, le radio in cui ci sono delle voci che tengono compagnia, e Radio 24 è una di queste. E quindi abbiamo deciso di provare a chiedere a loro, di chiedere espressamente a loro come è andata questa quarantena, come è andata questa ripartenza. L'abbiamo fatto in collaborazione con una rivista del settore, che è la rivista TIR, che è il mensile ufficiale dell'autotrasporto, che è pubblicato dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, e ci sono arrivate 4 storie, sono 4 piccole storie di 4 autotrasportatori che vi racconteremo in questi 4 venerdì, e partiamo con il primo. Si chiama Stefano e viene da Perugia. Nonostante le difficoltà siamo andati avanti, abbiamo cercato di fare il nostro servizio sia per noi stessi, per la comunità, eccetera eccetera, anche a sacrifici, perché comunque sia, c'è anche da dire, non trovando nulla per cui rifocillarsi, servizi o cose di questo genere, diciamo, era difficile. Comunque ci siamo dovuti reinventare qualcosa, diciamo, più o meno normale. Se prima magari con la pandemia, diciamo, anche i scarichi nella grande distribuzione potevano essere più scaglionati, ovviamente c'era meno gente in giro, di conseguenza di solito i tempi di attesa possono essere quelle 4, 5, 6 ore secondo la che grande distribuzione è, diciamo erano ridotti un'ora e mezzo, che stavi di lì e entravi, cioè diciamo che sarebbe la normalità lavorare quel modo, piuttosto che magari stai lì a aspettare o sotto il sole, sotto l'acqua, freddo, caldo, giusto o meno, con servizi così, poi erano inesistenti in quel periodo, tutto chiuso, cioè vietata agli autisti, alla fine della fine se senti anche un vuoto dentro, come se avessi la peste addosso. Stefano ha una piccola azienda di trasporto in Umbria e guida in prima persona uno degli 8 mezzi della flotta. Si occupa di alimentare, ma anche di rifornimento ai cantieri. Tutto sommato abbiamo lavorato, dice con una voce sorridente, a uno spiccato accento perugino. Viaggiare durante la fase 1 del coronavirus è stato surreale. Le strade erano vuote e intorno a noi era tutto chiuso. Ci mancavano alcune cose indispensabili, persino in autostrada. Durante le prime settimane era difficile anche prendere un caffè o usare i servizi igienici. Eppure, nella negatività di un momento così particolare, qualche cosa positiva c'è stata. Il fatto stesso che non potessimo scendere dalle cabine ci evitava di provvedere in prima persona alle attività di carico e di scarico, il che ci alleggeriva molto il lavoro. E poi mi sono successe cose mai viste prima, mai. Un giorno, mentre consegnavo la merce a un supermercato, alcuni passanti mi hanno ringraziato da lontano. Gli stavo portando del cibo e loro mi riconoscevano un ruolo importante. Noi camionisti non eravamo più i grandi mostri della strada, al contrario. Vorrei raccontare un aneddoto. Una volta ero in un piazzale a mangiare il mio panino ed è arrivata una signora con una moka piena di caffè appena fatto. È stato un gesto che non dimenticherò mai. Walk up straight through the roof, straight through the hole in the ceiling, take your place in the sky. Oh, look around at the clouds that hold you, that hold you.

qualcosa che avete voglia di raccontarci che abbia a che fare con una linea d'ombra, una linea di confine che avete attraversato, o magari no, siete rimasti al di qua di quella linea, e raccontateci anche i vostri diari della ripartenza. Noi li prendiamo e ci facciamo una puntata. Grazie a Danita Panizza, grazie a Mauro Pescio, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Noi ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!